Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. C'è nessuno? Avanti. Ciao Antonio. Tino, comprovando un apparecchio piccolino. Mi dai un controllo? 9-10 Radio 5, sì. Allora già sta andando, dai. È uno... piccolino, una scatoletta di tonno. Però sta andando bene, era tanti anni fermo. A voglia che va bene. Bene mi senti tu? Sì, a voglia. Ascolta un attimino, la radio com'è? Una bomba. Non è amplificata, però va bene, vero? Va benissimo, va. Va bene, va bene. Rimango un attimino in stand-by che poi riprovo un'altra cosa, Antonio. Scusami un attimino. KK, dai. Se non mi trovo, No, due secondi, aspetta. Eia, faccio un sonno. Avanti. Sono io, Antonio, aspetta. Eia, K. Tino. Eia, aspetta un attimino. Guarda, si sta aumentando di vatte. Ora, 1, 2, 3. A voglia, se 9:20 adesso. Ascolta, sono con quello piccolo, ti arrivo in campagna. A voglia. Vabbè, qua ti segno Santiago 7, poi fai lo smitter comunque. Aspetta che sto provando a farlo pompare. Devo arrivare a 9:30, almeno, aspetta. Ora. Guarda tu adesso, se sta andando. A voglia sta andando. Se 9:20 qua. Aspetta. Ecco qua, di più forse non va. La radio ha migliorato oppure è rimasta sempre la stessa? Un pochettino si è sporcata. Un pochettino. Io adesso sono con la Storm 27 e l'Intech, il portatile. Ho voglia, va. Aspetta. Vabbè, tieni presente che è un mic normale, Gappa, è così un'altra musica, vero te? Sì, ho voglia. Va bene. Sì, 9 più. 9 più 20 con questo? No, qua mi segna 9 più, ma con l'altro arrivi con la 9:20. Sì, va bene. E questo non ha aumentato niente, guarda. Ora. Sì, se è 9:30 in oggi. Ah, già aumentato, la radio si è sporcata, così è. Un po' si è sporcata. Ok, fatto le prove e mi dormo un po', Gucca, c'è un po' di sonno, ciò. Va bene, vai. Che ci riascolta stasera se ne voglia. Ciao Antu, buon riposo. Grazie del controllo. Ciao T, scusami, ma sono già tutta la notte sveglio. Quasi, ho dormito poco. Eccetera. Ma mi lavo a dromo e stanotte poi esco. Che scusa la vuoi? Tranquillo, tanto riposati, non c'è problema. Ciao, grazie ancora, ciao. Ciao T. Oh, Hola. Sì. Hola, hola, hola, mi senti? Sì, io ti sento, sì. Ciao Andrea. Ciao Gianni, ciao. Ciao, Laura, no, mi stavo parlando con le tenerife, se l'avessi. Aspetta che non riesco, sono riuscito a sentirti bene, prova. Ho detto che stavo parlando con le tenerife, se l'avessi. Già, avevo un... lo scorso inserito e ti ha tappato tutto, cos'hai detto? Che stavo parlando con le tenerife. Ah, cappa, cappa. Abbassa per, ecco. Guarda se così va bene. Guarda qua, la radio com'è secondo te già? È normale, dai, non è potentissima, ma va bene. Ma va in distorsione? Oppure satura, com'è? È un po' occupa, rimane appena appena. Ehi, aspetta. Guarda, adesso ti faccio il passaggio così spengo, lascia perdere il segnale, voglio vedere se la radio cambia, ecco qua, adesso è normale, la radio ha cambiato. Vabbè, più chiara così. No, è un apparato, che cacchio di apparato è, un Intec 340, mi sembra. Ah, il 340, quello piccolino. Eia. Quello esce bene, mi se li metti il microfono amplificato della Intec, cos'è che anticipo? Questo qua è un apparato che usava un CB anni fa, e praticamente era buttato in una cantina, non accendeva neanche, adesso l'ho messo, lo carica un po', adesso i condensatori sono ripresi, sta funzionando, eh? Sì, già va bene, e poi quegli apparati vecchi tu li potevi lasciare cent'anni fermi e funzionavano, mentre invece quelli nuovi rompono le scatole, se li lasci fermi un annetto non ti funziona più il volume e si sente tutto quanto si sporca subito. Cappa. Ma adesso stavo provando a pilotare con quello grande, ma ho visto che, mi hai detto che va in un po' compressa la radio. Ma un tantino, non è tanto, è compressibilissimo. Va bene. Per la radio è un po' chiusa la radio, hai capito come? Cioè, questa qui rimane bella aperta, bella libera la radio, invece l'altra è un po' più chiusa, più ristretta, diciamo. Ma vabbè, ma la prossima che ci metta uno, è accoppiato un 747, o me lo metto nell'altro, nel container questo, boh, adesso vediamo. Cappa, c'è un po' di propagazione oggi, dove siete? In macchina siete? No, a casa sono. C'è un po' di propagazione. Ma c'è bello andare a Usi, noi attaccarsi una bella antenna. Va bene Gianni, dai, ti saluto che adesso mi sdraio un pochino, sto facendo una cosa fino adesso, sono un po' stanco. Ci sentiamo più tardi al limite, dai. Dai, ci sentiamo, un riposo, dai. Con carica pupille, come si diceva una volta. Ehi, adesso vedo se smontare questa roba, pulirlo all'interno, perché sai, quando accendi il volume o non fa niente oppure va di colpo, quindi vuole un po' soffiato, un po' lubrificato, insomma, vuole controllato, ma non ne ho voglia adesso. Basta, hai potenziometri, li metti un po' di CRC, lo vedi quanti anni. D'accordo, dai, a più tardi, ciao. Ciao, ci sentiamo. Attenzione, canale 10. Avanti. Ehi, buonasera. Ciao, buonasera. Cappa, ma chi sei, Carlo? No, negativo, sono Andrea, uno nuovo. Il catta, e dove sei Andrea? Sei 9.40, sì. Io sono via Mendola Bassa, Sassari, e tu da dove stai modulando? Zona Sassari Vecchio, zona Corso Vicco. Ah, allora siamo quasi di fronte. Aspetta, sei a fondo scala, cioè sei 9.40, sei fortissimo qua. Ma cosa c'è, un'antenna sul tetto? Guarda, c'è un apparato minimo. Ah, su quanto sei voce. C'è una magnetica da 1,20 m sul davanzale della finestra e un apparato che di quelli piccolini piccolini, diciamo. Oh, esce una bomba, esci, eh. Ma c'è un vecchio CB6? Guarda, sono rientrato da poco, dopo una ventina d'anni, mi sono ricomprato un apparato piccolino, ma giusto per vedere se c'era ancora qualcuno, e qualcuno lo sto ritrovando. Già, va bene già. Che tu sei a fondo scala, mi ricordi il tuo nome, così almeno la prossima volta che ti risento ti saluto. È Antonio Bombolo questa parte. Aspetta un attimo che mi sta chiamando la mia signora, 2 secondi. Eccomi qua. Ok, anche tu sei a fondo scala, pulitissimo. Ma che apparecchio c'hai tu? Allora, mi sono preso l'altro giorno un Escort HP6005 della PNI, quello piccolo piccolo. Ma sai, sente bene come apparecchio, va veramente bene, va. Adesso è un apparecchio nuovo, deve essere. E dove l'hai preso? AGBC, no? Allora, c'era un'offerta anche adesso su Amazon, questo apparecchio con l'antenna, tutto completo, 80 euro, quindi immaginati tu con cosa sto uscendo. Oh cavolo, sei veramente, veramente forte qua. Vabbè che io sono vicino, non sono tanto lontano, veramente forte. K, stamattina stavo modulando con altri amici che ho conosciuto da ieri, io sono di nuovo in diciamo così, in frequenza, e stamattina ho sentito anche uno da Muros, però mi devo mettere almeno una boomerang. Ah, chi era? Claudio? K, esatto, era Claudio, lo sentivo proprio piccolissimo, Santiago 3, Radio 1, ma proprio appena il rumore di fondo. No, qua arriva bene Claudio, i 7, arriva forte qua, no, molto molto forte, capito? Io c'ho anche l'antenna più piccola, ciò, mi sto faccio sentire, c'ho anche l'apparecchio piccolo, teniamo di 20 dB. E che antenna hai sul tetto, una fissa, no? Va a vedere, mi senti con questa? Cappa, sempre bene. Che antenna stai usando? Allora, con questo che sto parlando adesso la Stormo, con l'altro la Ringo. Sì, ma qua siamo già ad alti livelli, cacchio, sento benissimo con tutte e due. Questa sta un po' fischiando, è possibile? Eh beh, se c'è l'altro apparecchio acceso, logico che fruscia. Cappa. Ho dovuto attenuare i 20 dB, se no mi satura tutto qua. No, qua c'è... No, adesso come sto usando adesso c'è sostanza, c'è. Capo, già si sente, qua sei quasi a fondo scala. Sono qua 9.40, capito? Abbastanza forte. Tu, io sicuramente sono a fondo scala, sì. Sì, senza problemi. E com'è l'ambiente? Ho sentito un po' di amici, ma quanti sarete? Più di 10. Ma sempre poca roba rispetto a qualche anno fa. Tutti sul canale 10, no, ho visto più o meno. Sì, molte volte entrano sul 23, entrano. Ho visto anche Nicolino da Porto Torres, mi sembra che ho sentito, è possibile? Può essere. Anche da chi Santennino così fuori esce. Ma non lo so, io sto provando, ma come dire, sta uscendo benino. Adesso sì, anche ho poche stazionarie, adesso sto uscendo a 4 watt pieni. Cappa. Qua se no, non ci crede nemmeno che con quella roba. Perché sei forte. K, beh, meglio così, può essere anche la giornata oppure qualcos'altro, K, chi è che vuole entrare? Buonasera, Oi, buonasera Cristian. Buonasera Andrea anche, se mi senti. Lo senti a Cristian? Ti ha salutato? No, non lo sento, ma adesso abbasso lo squelch per vedere se riesco a, come dire, addestrarlo dal rumore di fondo. Proprio mi senti meglio, dai. K, ti ha risposto, Ho sentito, io lo sento, ma K, ciao Cristian, io non ti sento ancora, buon pomeriggio. K, allora ha detto comunque che ti sente. Buonasera a tutti. Oi, buonasera a lei, Marco. Lo senti all'amico? Cappa, buonasera Marco, ti sento benissimo. Cristian non lo sento. Sì, proprio mi sente. Adesso ti ho sentito, piccolino, piccolino. Cappa, cappa, ma ce n'era anche un altro sotto, Marco, mio padre ha trovato il 747, domani me lo dà. Ottimo Antonio, ottimo. Quello basta pilotarlo in basso, esce pulito pulito, come quello che c'è qua. Ciao Andrea, anche Cristian arriva, Santiago 9, facciamolo venire avanti, io sono più che altro in ascolto perché tanto sto sempre facendo roba qua, ok? Vai Cristian per Antonio. C'è anche propagazione, Anto, sento un sacco di immondezza sotto, per cui Cristian sembra mobile e potrebbe essere coperto. Cristian, ci sei, riprendi. Se mi sentite quasi bene, dai. È 8, oscillante, 7, 8, 7, 8, ma c'è propagazione e fa un sacco di ciabotto. Io rilancio Andrea e rimango in ascolto, dai che sto saldando. Vai Andrea. Capa anche la parte mia, quel segnale lì. Avanti Andrea. Ti sento adesso. Da Marco di prima. Aspetta, dimmi Andrea, hai detto a me che ho le mani impegnate, dimmi. Per il tu, ti ho confuso con Antonio, scusami, ti volevo solo salutare. Cappa, Antonio, questo è un altro baraccocco, Spero che la modulazione sia limpida, se no lo sbatto al muro. State scherzando, qua è una bomba, Aspetta che sta scaldando il bambino, fra un po' che lo provo, che sta un po' fermo. Deve scaldare le valvole. Fate mia, va bene, come radio. Cappa, forte e chiaro, ma forse adesso ti sentemi. Cappa, sì, ti sento adesso. Cappa, ha detto che ti sente lui, Cristian. E sono sulla zona Budi Budi, salendo verso Sassari. Ha detto che in zona Budi Budi salendo verso Sassari, lo senti? Cappa, sì, sì, lo sento. Lui mi sente, mi senti? Lo senti, Cristian? Senti la QRM però adesso. E capo, anch'io un po' di QRM, però si sente un pochettino, dai, riesco a estrarlo, a toglierlo fuori. Cappa, cappa, adesso attacco l'amplificatore, vediamo un po', che c'è un bel po' di tempo fermo. Voglio vedere come esce, perché le valvole sai com'è. Capito? Scusate, da noi sei proprio a fondo scala adesso, Con l'amplificatore cosa vi succede? Va a abbassare. Attacca, attacca, prova. Altura, attaccato, Non lo sto sentendo neanche io, Cristian. Andrea, mi senti adesso? Cappa, adesso molto meglio, e tu mi senti? Io ti sento, e tu mi senti? Avanti. Ora c'è l'amplificatore, vedi? Tu fai un passaggio. 1, 2, 3, prova. Ehi, qua sei a fondo fondo, Cappa, cappa. Intorno a 2,10, 2 qualcosa. Cappa. Anche questo va usato. sì, per forza. Attento, Cristian, mi senti? Non ti sento basso basso. Appena, è barrato. Allora, aspetta un po', ti sento, che mi senti bene, vai, che è una tua zona pure. Vieni, vieni, mi ho tiburi sotto gas, mio, si sa mai che parte il finale di trasmissione. Oh, vai tranquillo, mi metto vicino a casa tua, guarda, sono zona via Mendola, via Italia, devo andare, fare la commissione. Vieni, vieni, vieni, vieni. Questa mi copia adesso? Sì, sì, lei è un po' bassa però, segnale buono ma la radio è 3. Cappa, vabbè, c'ho un'antennina del piffero. Cappa, cappa, la mia è un'antenna grande, la mia. Allora, della serie, così. Professional. Cappa, quanto è alta? Più di 5 metri. Cavolo, più di 5 metri. Pensa che la manto fa alta 7 metri qualcosa. Ma posso mettere il manto a volo in macchina, mi dispiace. Però c'è una magnetica, Cristian, da quanto è? Quanto è alta? Adesso un metro e mezzo, lei è una base magnetica. Capo, io ho una PNI magnetica da 1,20 m. Forza, va bene come antenna, non me ne posso lamentare, guarda. Capo, adesso ti copio bene. La prossima sarà diversa l'antenna, la 2001. Sempre da barra mobile. Capo, dopo mi metto anche stata le base pure. Non dice andente tu. Io indovina. Caffa che affa. Ma evidentemente sì, un punto come... Dove, come si dice, un punto dove io ti ascolto anche bene a te. Stavo dicendo a te, non mi ricordo come ti chiami. Andrea. A capo, scusami, pensavo stessi dicendo a Cristian, ma sei sempre Antonio? Ehi, Antonio sono. Ehi, Antonio, scusami. Sì, io ti sento a fondo scala qua, sei pienissimo come segnale. Già, non credo, già. Andrea, mi ti sento perfettamente adesso. Cristian, tu devi essere vicino a zona di Amendola adesso, vero? A zona di Pascoli. Ok. Io invece sono via Amendola Bassa, vicino al rifornitore. Fammi, allora, io adesso sono vicini, dai. Tra via Napoli e via Amendola. Appa. Io via Amendola Bassa, molto più giù di via Napoli, vicino alla rotonda. Sei lunghi, sì. Sì, praticamente siamo vicini di linea d'aria, quasi di fronte. Conce! Esatto, più o meno in quella zona lì. Mamma mia, ci ne è chiuso di sottolineare, ma che mal di capo mi prende. Segni, tutto. Non lasciati il suo per te, dai. Dai, caro, che sì. Quando ti trovo ti faccio un po' l'uomo. Tanto se che mangi poco anche. Se ne scando, come vai? Adesso? Attendati da sotto casa. Sono scando adesso? No, adesso no. No, ma sotto casa sei? No, sono in Sicilia. Non va forte sei qua. Non è colpa mia, guarda. Dai, che ti stai avvicinando, che ti spacco tutto lo smitter. Ai, caro. Come sei arrivato? Porto Sant'Antonio. Già lo so come sei portato Sant'Antone. Ma che si intende? Eia. Non ce n'è per nessuno qua, insomma. Certo, potentissimo. Stai spostando anche la manopola. Bebo, che sei ragazzi dolci? Dai che bella canta la valvola adesso, vai! Ma sono dietro a casa tua proprio, vicino alla stazione. E cosa c'è? Lo smitter non ti si muove più. No, lo smitter come è sempre calato lì a me, no, come è sempre così lo smitter il mio. Caffa, se c'è anche l'antenna mi intende. Quello è poco, ma sicuro. Andrea, sei tu, dai, per favore, dai. Mettere via, ragazzi, guarda. Certo, se stacco l'antenna ti sento anch'io. Cappa, mi un po' come passaggi ne è su a fare. E tu la paghi la bolletta, ma paga lei nel... La bolletta. Certo, fatti per la casa che... per la luce, scusa. Cazzo, tu sei sotto casa. Io sono Santa Maria adesso. Non venne più smettere, no, che... Ecco, dammi il numero Anto, giusto per capire la potenza. Ma no, 54 omologati io. E sono 200 qualcosa. 200, io sono a 4, scarso. Sì, io forse 5, ma non di più. Ma abbiamo un poco di freddo, l'ho dovuto far scaldare un po', dai. Dopo questi scaldamenti. Quindi il riscaldamento non lo accendi in questo periodo? Ma uso poco questo coso. Ogni tanto va usato, eh. Pagappa, boh, basta, va di tutto. Mi sta saturando adesso da vicino, eh. Ehi, saturando stai? No, tu stai saturando. No, sei tu che mi sei fissato, perché l'ermo troppo forte. Esatto, abbasso un pochettino, sono sotto della radio. Ma non è che sto saturando, no. Mi senti troppo forte. Ok, dai, io passo all'altro, se no, in occhio. Quanto sta girando il contattore, Anto? Poco, poco. Caro bollettemi. Hai detto che passa là. Appa. Sì, sì, bravi, bravi. Adesso lo sentite bene? Sì, io chiarissimo, Cristian. Sì, sono casa tua, si può dire quasi, anzi, sono solo casa tua. Infatti adesso sei quasi a fondo scala. Tu come mi coppi? Sempre bene, radio perfetta. Che direzione ti stai muovendo? Dimmi. In che direzione ti stai muovendo? Più o meno la zona alta, forse via l'Italia. Kappa, però ti sento... La faccio con l'antenna da un metro e mezzo, base magnetica, 5 watt, va anche bene. Antonio, lo sento da Iti, lo sento, Antonio, da Iti non mi ha sentito, così, figurati. Eccomi qua, va. Facciamo i siri. Prima. Vero Antonio? Già vero già. Ora. Ecco qua. Facciamo le persone serie, là, abbassiamo potenza qua. Che sono tutti vicini adesso. Appa. Che antenna la balcone mi consigliate, Anto? Vai Anto, prendi il microfono. Kappa. Hola. Già va bene, là. Un po' di meno. Già andava, là. Ma qua sei sempre a fondo scala, e cos'è di meno? No, molto di meno la potenza. Hai spento o hai abbassato la potenza? Ha abbassato la potenza, lo sento dalla radio. Io sono sempre a fondo scala con lui però, eh. Kappa, no, ho tolto un po' di flat, ho abbassato la potenza. Vedi, no, in occhi, uia, troppo forte. Kappa, che antenna da balcone mi consigli, Anto? C'è il posto, la boomerang, la grande. Kappa, infatti quella stavo pensando, la Sirio. L'EM. La LEM, ok. La Fusaro, quella va bene. Kappa. E si conferma. Kappa. No, l'altro no. Quindi quella che già va bene. Invece io per caso mi vedo la Venom, che è più pratica. No, vabbè, se è da balcone, se le mette sul tetto o altre antenne. Ma la Venom me l'ho consigliata anche stamattina, ma va bene anche da balcone la Venom? No, è enorme. Kappa, no, a me serve qualcosa di, vabbè, 2,5 metri al massimo. Kappa. La boomerang metti, è la migliore. Kappa, mi stavo indirizzando anch'io su quella. Kappa, no, non i buoniti cose. Metti quella lì che fa bene. Capito. Eia. Poi se hai la possibilità di metterla sul tetto, allora altre antenne. Va bene quella, la Venom. No, in realtà sul tetto no. Quindi alla fine mi devo accontentare di quella da balcone. Ma perché non la puoi mettere? Non la puoi mettere? Non è così. In realtà è un mezzo casino perché l'area del palazzo non è proprio del condominio, quella in alto, quindi non so esattamente come si possa mettere. Ma come sta funzionando adesso senza le concessioni? Il condominio te lo può dare o ti stanno rompendo le scatole? La piazza è boh, perché ti dovrebbero rompere le scatole. Tu piazza lei a tutti i dilli. Ma perché l'area è privata, capito? Non è che ci si possa neanche salire. Lo dovresti chiedere al proprietario. Kappa, vabbè, alla fine vedo un pochettino. Ma anche di chi di un po' goderiose? No, non lo so, non lo conosco neanche. Il fatto è che, come dire, bisogna sempre... trovare l'accordo. Ma magari una persona in gamba te la fa mettere, basta chiedere. Kappa, è vero anche quello. E adesso vediamo. Kappa, se c'è un buon rapporto che non hai mai avuto problemi di altro, te la fa mettere. Kappa, no, ma in realtà non lo conosco neanche, capito? Vabbè, gentilmente lo chiedi, se no ti metti la bumera nella finestra, nella fanculo. Ehi, adesso vediamo. No, comunque per essere al secondo giorno, come dire, ho ritrovato almeno la comunità, pensavo non ci fosse più nessuno. No, ci siamo. Cristian, dove sei? Qua a due. No, ci siamo. La Fusaro ce l'ha, la boomerang. Quella lì è l'unica che, per me nella finestra, è l'unica che può andare bene. Molto in alto sei nel palazzo. Sì, alto sono alto, sono al settimo piano. Allora voglia. Scappa, piuttosto ho due balconi, e che orientamento mi consigli? Uno vale l'altro? No, non so, quello dipende da te. Cioè sei sul tetto, un po' che parola. Quasi, sì, quasi sul tetto. Ma non ce l'hanno sbocco. Castermetti una grande. Sì, forse riesco sporgendomi dal balcone ad uscire dal coso del palazzo e praticamente lo supero anche in altezza. Allora andate. In quel caso che cosa posso mettere al posto della boomerang? Una Venom? Una Venom, una Ringo, forse così, leggere. Scappa, adesso vedo un po'. Attende che pompano. Scappa. E tu che contatti hai avuto col tuo apparato? Io? Ne ho fatto tante con il mio apparecchio. Tanti collegamenti. Ma a livello Spagna, ho sentito ieri qualcuno che è arrivato anche in Inghilterra. Sì. Io ne ho fatto collegamenti, io anche in continente. Scappa. E la propagazione com'è in questo periodo? Ma così, mi aspettavo un altro po'. Sono in Sicilia a fondo scala, arrivavo. Scappa, il periodo dell'anno migliore qual è? Bisogna aspettare agosto, luglio, penso. Anche prima, dai. Capito, tarda primavera e estate. Scappa. Io sono arrivato in molti posti quest'anno. Sono arrivato in Sicilia fortissimo. In quelle zone lì, in Costa Ionica, a Bari, un sacco di posti. Ma io quando attacco qualcosa lì non ce n'è per nessuno. Cioè quanto arrivi forte? Sì, cavolo, ci credo. Con quello lì più la propagazione, caspita. In ricezione anche loro erano potenti? Qualcuno a fondo scala pure. Scappa, quello si dà soddisfazione. Pompano forte. Ma morirà la moletta! Ciao Lu! E beh, in compagnia dell'amico me, Don Viamendola. Sì, stamattina l'ho sentito, là. Adesso sono dall'altra parte, ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio. E a Luca da questa, là. E sono andato a farmi un paio di aspari, gente, ma un paio proprio, Ogni camminata, sono a pezzi, sono. Figata, brudu. Ah, camminata. Guarda, sono giugana, boh, finito, morto sono. Me, Luca sta uscendo con la boomerang, da Santa Maria di Pisa adesso. Ciao Luca, sì, a fondo scala anche tu qua. Veglia, una boomerang. Chiappa, no, va benissimo, questa stamattina ero con la mantofa. Sì, tanto la mantella vuole un po' regolata, tanto bisogna buttarla giù di nuovo, cioè abbassarla, non buttarla giù. E sollevare poco a poco la spirale. Si contava detto, quella è una cosa che voleva fatta subito. Vabbè, ma io sono andato a casa, sono arrivato, sono sceso giù a 1-1 che nel 10, capito? A 1-1 nel canale 10, A 40 quasi 1,5. Perciò le voglio almeno a 1,1 su 45, 1,2 massimo. Se no non posso attaccare nuda. Così mi compro un amplificato di nuovo piccolino, quello 747. Scappa. E andava comunque là. Che cosa? Ammara, vai. Ora da mare. Ora va bene. Ecco. Un po' pochettino di potente. Troppo potente. Ora, andiamo. Altro bianco, arrivo subito. K, sto andando per stazionaria. Ecco qua, così va bene. E qua ci sono i picchi di modulazione. A me arrivi sempre a fondo scala, quindi inutile che te lo dica. K, no, ma io sto controllando i picchi di modulazione a vedere quant'erano. K. Ecco. Perché c'è l'ultimo piano, per quello che esci così forte, capito? Cappa, sì, la posizione già va bene. Adesso secondo me con una boomerang siamo proprio al top, almeno per quello che interessa a me. Guarda, se ne metti la boomerang lì al settimo piano, capisci, non hai bisogno di mettere altre antenne, perché esci un bel forte. Un'antenna eccezionale, tarata bene, se ne frega. Cappa. Ok, dai, io vado a fare delle cosette, dai, ci sentiamo dopo, più tardi, ciao. Ma ciao Antonio, a dopo, buona serata, ciao. Ce l'hai grosso e scappellato. Come? Ah, già detto, ce l'hai grosso e scappellato, l'hai solito. Scusa, avevo il volume basso, ho visto solo la portante. E beh, Antonè, come butta? Ya va bene adesso. Eia. Ascolta, non è che sei anche su, per una breve verifica? Su... lo vado di solito io. Via Merro. Te lo accendo adesso, non è problema. Da aprire adesso. Aspetta, devo aprire la spina e ce l'ho la cappella. Così poi ti do un controllino. Stavo pure la stamattina in camera, ho potuto staccare tutto. Vado via. Si te la metto a sentato del coso. Quanto è inserita? Ah, eccolo qua. Ma ti siamo. Se funziona una cosa vecchia che non uso da 2 anni, da pre-covid non lo usavo. Sì, aspetta, sì, la ciappo, c'è un gatto del goglio. Sì, quel veicolarino, qualcosa che abbiamo fatto da veicolare. Ti faccio sentire giù, parla. Attento, mi copi? Parla ancora. Parla Anto, parla. Ehi, già sto parlando. Vorrà vedere come mi senti in PMR. Va in stereo, te lo dico. Ottimo, su, ottimo. Ti sei ascoltato? Ehi. Jamaica. Vieni 27. Antonello 27. Allora intendimi. No, pare che ci siano comunicazioni Covid dintorni là e io non li sentivo. E non voglio disturbare nessuno. Quindi Antonello passa qua. Ah, io vieni 27, Antonella, senza polemiche, dai. Non mi sente, ce l'ha spento. Natalino, tu sei? Ehi, sono qua. Ehi, adesso lo convinco a venire. Sta facendo polemiche che c'eravamo noi prima, da tanti anni. Già quando comincia così, Antonello? Ehi, non capisco. Antonella, io parla qua, cioè... Noi possiamo parlare. È continua, è continua a polemizzare. Cioè, Natali, quello che dico io è che quelli stanno lavorando, no? E noi non li sentiamo perché hanno 500 milliwatt, no? Ci abbiamo la 27 disponibile, andiamo in 27, no? C'ho ragione, dimmi che c'ho ragione. C'è ragione, se stanno lavorando, lasciali fare. E poi partono le denunce. Ma lui ne fa una malattia, è da poco fa che sta continuando, vabbè, perché qua, perché là, perché su, perché giù, vieni 27, t'ho detto, non mi fare bestemmiare. Io Antone, dai, inutile che quelli stanno lavorando, cioè noi per cazzeggiare già abbiamo il canale 27, io non li sentivo, perciò mi sono scusato, non li sentivo, io sentivo solo te e chi c'era lì dei nostri, non li sentivo, se no mi sarei spostato immediatamente. Ti ho capito, ma non mi hai capito tu, allora dimmi, spiegami tu adesso, dalle 8 del mattino fino alle 5 e mezzo di sera non si lamentano loro. E c'hanno i cantieri vicino, c'hanno, dove stanno costruendo delle palazzine. Adesso tuttora, hai capito, gli vengono le crisi epilettiche. Siccome quegli apparecchi lì li stavano usando anche da prima, quando noi usavamo il canale 7 in PMR, loro erano spostati negli PD sul canale 1. È tutto quello che voglio dire, Marco. Quindi lo sbaglio non l'abbiamo fatto noi, ma l'hanno fatto bensì loro. Hai capito? Cosa hanno fatto? Sul canale 1 c'è il centro vaccinale e si è spostato sul canale 4. E invece sul canale 1 in pratica c'è il pronto soccorso, che poi se ti ricordi, una volta che era passato il Covid, non c'era manco un cane. E gli ripeto, non c'era più nessuno, infatti ho detto strano che sono spariti. E poi hanno preso e siccome gli hanno fornito questi apparecchi qua, gli 888 che li ho visti io, e quando sono andato con Giovanna non gli ho detto niente, gli hanno fornito gli 888 che sono 8 canali PMR e 8 DPD, hanno preso un canale qualsiasi e lo usano tra il pronto soccorso e il primo piano, il secondo piano, il terzo piano, tutto lì, boom, basta. Il discorso è quello. Vabbè dai, non c'è problema, io ripeto, non sentivo nessuno, sentivo te, sentivo Natale e basta. Ok, vabbè, non c'è problema, dai. Ok, sto usando la link, Antone, mi copi bene? Sì, sicuramente sì. E tutta questa roba ferma alla fine non è controproducente, bisogna regalare tutto. Dammene un a me per la macchina, carissimo. Dove già pronto. A parte Marco, che sento nome e cognome di tutti i pazienti qui che non possono neanche dirlo, quindi questa roba qua non potevo manco usarla, ma comunque sia, taglio il discorso così. Del PMR per loro stanno completamente sbagliando, perché tu se uno utilizza una frequenza del genere il nome e cognome del paziente non devi dirlo, perché è violazione della privacy prima di tutto, perché se uno registra e va a fare un esposto gliene prendono tutto. Il discorso è quello lì. Marco, mica il Natalino vuole debaracchini il regalo, se il salto, cioè Natale è già passato, adesso c'è Pasqua, dimmi che prendi un uovo di Pasqua di quelli grandi, non di merda, no, di uovo di Pasqua, ce lo metti dentro, li metti, come si chiama, il cielo fa, e poi glielo dai. Natalizio, metto anche una letterina. Con affetto, tuo Marco. Carissimo Marco. Con la lettera profumata, col bacio di Rossetto. Tuo Marco. Avanti chi brecca. Quando fai così ci temo, Marco. Sono commosso. Avanti il brecca, avanti. Ciao Franco, ben sentito. Santiago 8 e mezzo, Radio 4. Posizione, qui c'è Natalino, Pomponio e il sottoscritto. Vieni avanti. Ottimo, ottimo e abbondante, capibilissima la radio, ottimo il segnale. Vediamo Natalino se ti sente. Natalino, senti Franco a capocaccia. Negativo Marco. Oh, vabbè, prova tu Antonello, senti? Prima voglia che lo sento, Santiago 2, ma già lo sento. Ciao Antonello, buonasera, mi ascolti, sì? Infatti si è alzato tutta l'ora, adesso si sente. Ciao, mi ha attaccato il preamplificatore adesso, gada gada, ok. Ciao, va bene. Stai scendo perfetto. La brioche, sì, la brioche. Franco, sei in camper o baramobile? No, sono in baramobile a Capocaccia, dove c'è lo Zimino esattamente, ristorante lo Zimino. Comunque 9, segnale 9, salito appena, e quindi eccellente direi. Io sono a Salsa e Natalino è troppo in basso di antenna, non ti copia. Pomponio è in alto ma c'ha strumentazioni dilettantistiche, ti copia un po' sì, un po' no. Io sento che parla ma è incomprensibile, Marco. Capito Antonio, tu c'hai strumentazioni dilettantistiche. Cosa vuoi che c'è? Mi piace fare la cosa tu, ecco. No, a parte gli scherzi, lo copi bene Antonio, sì. Sì, sono già venuto nel 2009, non te sei accorto. Sotto un ecco c'era Giovanna, hai capito? C'ho lì quello e c'ho anche il resto. L'ho acceso tutta a casa sua. Qua c'è solamente il 2009, il VU e i quattro portati. Siccome avevo paura, non so, che ci rimanevo secco quando mi facevo il vaccino del Covid, allora ho preferito demorirmi, capito, non so, che poi arrivavo agli avvoltoi a chiedere la roba a Simona, quindi allora ho sceso tutto lì. Scusate, fermi. Sto provando il PTT. Quello del 5005 è uguale di microfono, però c'è il PTT andato, bisogna revisionarlo. Volevo pigliare del CRC, vedere com'è dentro, se è necessario sostituire proprio il PTT, come si chiama? Il PTT, sì, il vero PTT dentro, il Pistorozzi del PTT, dai. Cap. Già ne abbiamo PTT a voglia, ne ho due di quelli 6x6, 36, diciamo. Poi c'ho quelli PTT del microfono normale, quelli ne ho 3 o 4. Allora gli ho pezzi. Eia, rilanciamo Franco. Franco, com'è là? Si vede un po' di cielo stellato, anche lì è coperto. Cambio, riprendi. Franco California, mi copi. Si è sentato. La canna, te lo sto dicendo io. Sentato, si è fermato, ha visto la canna che si fa buona. Sì. Di una. Ah, fa culo, tu e cosa? Però abbassa. Adesso sì. Lo passo. All'ammazzo. Perché? Oh, uno in baramobile, ha detto allo grebo, c'era l'oscillazione fading, Mattia si è schiacciato. Chi è? Vai, sto scherzando, ero io. Abbiamo parlato assieme, Antonè. Ti volevo dire, hai la possibilità di ridurre l'eccessivo rumore ambiente? Perché Antonè è un casino. Se sento questo faccio fatica a capire le parole. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, parla un po'. Te lo dico io, li metto il CRC dentro, come si chiama, come si diventa silenzioso. Vabbè, alza appena adesso, non esagerare. Ehi, alzata appena. Sì, sì, quella ventola è terribile, Antonio. O sarà il microfono che è troppo vicino, però è un problema. Vediamo se c'è qualcun altro sul canale. Avanti, canale 10, avanti. Tutto bioddu. Tutto bioddu, tutto bioddu. Sto facendo più che altro vento. Adesso vedrai come risulta, ci dici due secondi, non lo senti più, a vento. E ti rurampi tutta un'ora. Qui a Salvatore, mi. E Bettore. Stampa di tutto. Poi, per quello che sto usando, guarda, stampa di tutto, per carità. C'ho anche l'altro mio alimentatore, ci ho infilato dentro un coso, devo fargli sul foro per metterci l'attacco accendi sigari e i due attacchi rosso e nero, e mi faccio l'alimentatore grosso esterno e così sono a posto, con le manecce. A te pure i manigli? Così si ruba la stazione, furia che un arabirudore. Ciao Torre Squalo, c'è anche California che sta chiamando, rilancialo. Ehi, avanti Califo, manco, buonasera. Buonasera a tutti. Ma so se li ascolti perché io sono a Capocaccia qua. Al ristorante lo Zimino, cambio, non so se vi siete a quelle zone. Beh, e dove sei? Sei guardo. Ma giomai non ti intendo. Al ristorante lo Zimino, ho capito. Secondo me lui sta facendo cazzo come quelli che vanno a portare il pesce la mattina alla moglie, dice guarda sono andato a pescare, mi. Amore mio, e cosa mi hai portato? E mi, le sardine già aperte, già pronte, mi. Assaggiale che le ho prese poco fa fresche. E lui è la stessa cosa, lui può andare lì a pescare, perché secondo me sta andando a mangiare in quel ristorante dello Zemino, te lo dico io. Franco, dove sei? A Fiume Santo. Capocaccia. A Parisu sei guardo. Parisu è che non ti intendo. A Capocaccia è. Prego, in macchina mi. Sei registrato, un attimino. Non ti sento quasi nulla, pio pio pio. Lo sento io a Capocaccia, figurati. Lo sento la lama della macchina io. Ma devi rintendo appena rintendo. Qua sta arrivando tra il 7 e il 9, leggermente oscillante, tra il 7 e il 9. Natalino non l'ascolta perché l'antenna è bassa, Pomponio l'ascolta. Ok, dai, riprendete che sto mandando un messaggio. Vai, Tore. Sì, ok. Avanti che doveva entrare. Buonasera, da parte Cristian. Sì, ciao Cristian, buonasera anche a te. Avanti. Certo, lo sento io a Franco, la cosa, a Capocaccia, lo sento bene, abbastanza bene, dai. Attento. Via da voi. Certo, io intendo appena. Beh, ti senti? Papa, Santiago 2, Radio 4. Alla faccia, mi lascio stare in Pisa, io ho parcheggiato in mezzo ai palazzi. Capa, ti ascolto, basso da... Arrivi, dai. Buono, sono a Capocaccia dalla macchina, figurati da casa con l'antenna, come arrivo? Capa di positivo. Antonella arriva da 7-8, dai, quasi 9. Franco, mi puoi dire il mio segnale? Sono 10 watt puliti, antenna 5 ottavi. 5-9, Marco. Ottimo così, dai. Riprendi Natalino. Davvero. Andiamo, andiamo, cazzo. Cazzo. Babbo. Ciao Cristiana! Che bello che sei! Tutto gonfio sono! Natalino, fa uno! Attento Natalino! Lo senti Natalino! Ma vero che sei qua uomane! Come sai? Ma vero! Luca! E io Marco! Guarda se copi Franco California da Capocaccia! Attenzione Franco California, vita mia gappa! Ciao Gabriele, ma non so se mi ascolti, stai arrivando basso qua, io ti ascolto basso. Lo sento basso, non sono a casa mia, Comunque l'antenna l'ho sistemata, Marco, però devo tararla. La grande? Cappa. Ottimo. ottimo, ottimo, sono contento. Sono rimasto anche stupito dalla velocità con cui è stata ripristinata quell'antenna. Te l'ho detto che c'ha le mani d'oro quella persona. Se doveva mettere le mani, parliamoci chiaro, se doveva mettere le mani. Fini i piedi. Va bene ragazzi, dai, vi saluto, che devo fare alcune progette qua. Ciao a tutti, ciao Luca, e anche agli amici che sono in ascolto su 10. Per me QRT alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao Franco, bianco per me un attimino, che ho tre panini. Bella Luca, bella, bellissima. L'hai tirantata anche? Ho capito, l'hai? Hai tirantato? Per forza. Ah beh, dice, è pesante quella lì, se non tiranti quella, ma le devi ritoccare le stazionarie ancora? Sì, perché c'ho, vabbè, nel 10 1 e 2, 1 e 1, sono 1 e 2, là. Invece nel 40 1 e 5, dovrò sollevare poco a poco la spirale. Sì, sì, li fai il centrobanda sul 30 o sul 40 limite, così copri i canali alti, capito? Il 45, la tripla 5, eccetera. Chi ci è rimasto? Pompone, oh, vai avanti, forse c'è qualcuno che sta chiamando anche, mi è sembrato Carlo. Io ho costruito un ottimo lavoro, dai Marco, ho messo anche il palo nuovo, quello che va in nesto, dai. E l'altro lo stesso, l'ho ripristinato, gli ho dato lo zinco sopra, le staffe, lo stesso, sono uscito un lavoro praticamente nuovo, dai. A parte il cavo, comunque, il cavo ancora è buono. Ehi, sembra nuova, questo supporto sembra nuovo, incredibile, bello, bello. Chiara, adesso devo trovare un sistema, così mi piazzo quella là, come seconda antenna. Ehi, dai, fate girare, chi c'è in baramobile? Carlo, sei tu che hai ripreso? No, forse o era Franco o era Cristian. Va bene, Corix per me, riprendete che mi devo caffeinizzare. Vai Natalino. Natalino è occupato, vai. Chi chiate c'era? Pomponio. Oh, bianco per me, arrivo subito. Niente, tutti morti. Ma cosa tutti morti? Cosa tutti morti? Io che stavo facendo cosa, già lo sai. A quest'ora poi devo mangiare, per forza. Sono a prigione in questo coso. Che invece mi sono stato di prendere a fare adesso. Ciao Cristian. Ecco, Cristian arriva a 8 di segnale, ma lo sento abbastanza disturbato sotto. No, non lo so, che strano. Sto facendo bene. Sì, sì, tu sì, non dipende da te. Un po' di QRM o residui di propagazione. C'era voluto di propagazione oggi, un po'. Disturbava i segnali un po' bassi. Ti sentivo da casa con tante nino qui.